24, i gialli della storia. Un personaggio timido, schivo, che non ha mai investito nella conservazione della sua memoria. Oggi a Radio 24 raccontiamo Adriano Olivetti, un industriale, forse unico in Italia, che ha indicato una strada possibile al di là del capitalismo e del socialismo. Un ingegnere, un imprenditore, un urbanista, un editore, un parlamentare, un uomo che ha organizzato la sua azienda intorno a un'idea di responsabilità verso il territorio, verso i lavoratori. Grazie a lui, la sua città, Ivrea, una cittadina a pochi chilometri da Torino, è stata a lungo il simbolo conosciuto in tutto il mondo della grande industria italiana. Quella di Adriano Olivetti è davvero una vita straordinaria, un visionario, come lo hanno definito in tanti, che però ha dimostrato nei fatti che le sue idee erano un progetto concreto, in gran parte realizzato. E questa storia comincia all'inizio del Novecento, quando l'ingegner Camillo Olivetti, padre di Adriano, cerca nella zona del Canavese manodopera per la sua nuova fabbrica di macchine da scrivere. Parla con le famiglie, intervista personalmente i ragazzi più volenterosi, sceglie quelli che crede possono avere l'attitudine a certi tipi di lavoro e li assume. È in questa realtà che Adriano Olivetti cresce. Ed è poco più di un bambino quando ha i primi contatti col mondo della fabbrica, come racconta lui stesso. Quando avevo 13 anni, mio padre mi mandò a lavorare in un reparto di Trapani nell'estate del 14 e ho faticato molto a lavorare nella fabbrica. Ho faticato perché il lavoro di queste macchine non mi attraeva e non soprattutto non fissava la mia attenzione, la mente poteva vagare e si stancava. Io lo guardavo con un certo sospetto questo lavoro manuale. È più che, non è un sospetto, è una specie di ritegno e difficoltà veramente a capire come si potesse stare delle ore alla stessa macchina senza imprigionare lo spirito. Ma la formazione del giovane Adriano Olivetti continua. L'indomani della laurea in ingegneria, Adriano Olivetti viene mandato dal padre nell'America della produzione di massa. E l'America industriale è dominata dalla figura di Henry Ford. Ecco cosa scrive Olivetti. 1925. Lettera dagli Stati Uniti da Adriano Olivetti al padre Camillo. L'impressione generale è che l'officina Ford sia un miracolo di organizzazione, perché tutto marcia senza burocrazia. Tutto è raggiunto con la enorme specializzazione operativa e tutto non perde tempo. Camillo Olivetti fa visitare al figlio Adriano 105 fabbriche in 6 mesi. Solo una fabbrica non gli apre i battenti, la Underwood, il colosso delle macchine per scrivere americane. La lungimiranza del padre trova terreno fertile nell'intelligenza del figlio. Olivetti infatti acquisisce un metodo, capisce cioè che l'industria si organizza secondo i criteri della razionalizzazione e del calcolo, anche nel lavoro umano. Nell'arco di 10 anni i 400 dipendenti della fabbrica del padre diventano 2300. L'Olivetti si trasforma nella seconda metà degli anni 20 e siamo in pieno regime fascista. Adriano viene messo sotto osservazione, schedato come sovversivo per le sue posizioni socialiste. Poi durante la guerra diverrà un agente segreto dei servizi britannici. Nome in codice, Brown. Arrestato, verrà rinchiuso a Regina Coeli, poi fugge verso la Svizzera. Ascoltiamo Enrico Morteo, storico del design, e Giovanni Avonto, ingegnere dell'Olivetti. Alla fine della guerra, rientrato dalla Svizzera, Adriano Olivetti fu invitato a governare la Fiat, che era stata tutta agli Agnelli in quanto accusati di collaborazionismo, e di mandare avanti questo grande impero industriale. Olivetti preferì non farlo, si occupò della sua azienda, ne riprese il pieno possesso e si impegnò invece in politica. Lo fece nel partito di Nenni, andando nel centro studi del partito. Si immaginava che dovessero essere progettati i nuovi assetti costituzionali e istituzionali del paese. Giovanni Avonto, a lungo ingegnere in Olivetti. Lui criticava l'uso che era stato fatto dagli imprenditori italiani, e in particolare dal coordinamento confindustriale, degli aiuti del piano Marshall, dicendo che tutti questi aiuti erano serviti piuttosto a rinsaldare le ossa delle grandi imprese e non invece quello di favorire lo sviluppo della partecipazione della democrazia. Rapidamente si accorse che i giochi si facevano su altri tavoli e in altri luoghi. Si allontanò da questa esperienza e maturò una sua idea di Italia diversa, basata su altre regole, su altri parametri e principi da quella che i partiti politici italiani stavano disegnando. Siamo nel dopoguerra, il paese è in difficoltà, i contadini cominciano ad abbandonare le campagne per trasferirsi nelle città industriali del nord. Per Adriano Olivetti il problema del rapporto con il personale diventa pressante. Luciano Gallino, ex dirigente di Olivetti, racconta la filosofia dell'azienda. L'ingegnere Adriano diceva: la fabbrica, il lavoro in fabbrica chiede molto alle persone, alle famiglie, alla loro organizzazione, chiede molto in termini di tempi di lavoro, di spostamenti, quindi la fabbrica ha il dovere di restituire molto. Tra il 45 e il 58 la Olivetti introduce ciò che dopo lunghe lotte si affermerà in Italia solo nel 70 con lo Statuto dei Lavoratori. La settimana infatti è ridotta a 5 giorni lavorativi di 9 ore ciascuno e il periodo di maternità aumentato a 9 mesi retribuiti e ancora l'assistenza sanitaria, gli asili nido, le scuole materne, tutto è gratuito ed efficientissimo. Alla Olivetti si lavora anche al costante ampliamento della fabbrica e dei servizi e alla costruzione di quartieri per operai, impiegati e dirigenti. Sentiamo Giuseppe Berta. Ancora oggi, se si percorre Ivrea, si vede come la struttura dei servizi sociali accompagnasse la fabbrica, era così di fronte alla fabbrica, proprio perché doveva esserci questa contaminazione continua tra tempo di lavoro e tempo libero. Scontrandosi con gli azionisti favorevoli ai licenziamenti per riequilibrare i bilanci, Olivetti al contrario assume, alza i salari e rilancia l'esportazione all'estero. La sua filosofia è semplice: se produciamo troppo dobbiamo trovare a chi vendere. La fabbrica inaugura nuovi stabilimenti e acquisisce delle consociate e in tutto il mondo si moltiplicano i negozi dell'Olivetti, grandi capolavori dell'architettura di interni. Ma sono soprattutto l'innovazione e l'eccellenza dei prodotti a decretare il grande successo dell'Olivetti, come ricorda Furio Colombo. La parola immagine ha due sensi diversi per i due mondi industriali di cui stiamo parlando. Da una parte si tratta di verniciare sopra o addirittura di inventare un'immagine che non corrisponde alla realtà. Per Adriano Olivetti deve essere qualcosa di bello il luogo in cui si lavora e deve essere qualcosa di bello la cosa per cui si lavora. È un culto dell'oggetto in sé che è stato rappresentato splendidamente sulla Fifth Avenue di New York davanti al negozio Olivetti. C'era una colonnina rotonda al culmine della quale c'era una lettera 22 con un foglio dentro e i passanti si fermavano e scrivevano una frase. La lettera 22, come la Fiat 500, è una produzione di massa, standardizzata, elegante, essenziale, robusta, accessibile a tutti. All'Olivetti l'introduzione di nuove iniziative è continua e stimolante. All'ufficio Tempi e Metodi, che regola il lavoro in serie secondo principi rigidissimi, si affianca così l'ufficio Direzione Personale, che deve stabilire quali siano le mansioni più adatte a ogni singolo lavoratore e capire nello specifico i motivi profondi di possibili fenomeni di disagio. Alla guida della Direzione Servizi Sociali Olivetti assume un poeta, Paolo Volponi. Con lui lavorano molti giornalisti, scrittori, psicologi e sociologi, tra questi Furio Colombo. Queste persone sono state scelte dal talento di Olivetti, che vedeva lo strano rapporto che esisteva fra queste persone e il lavoro. Dunque all'inizio degli anni 50 il Piemonte sembra avere due facce opposte. da una parte Torino, dove la dirigenza della Fiat va a uno scontro pesante con la CGIL, complice anche la pressione dell'ambasciata americana a Roma e il ricatto per le commesse. Dall'altra, a pochi chilometri, Ivrea, dove già vive un'idea completamente diversa del rapporto tra la proprietà e i lavoratori. Così Giuseppe Berta spiega questa differenza. Alla Fiat non c'era libertà sindacale, nel senso che alla Fiat si combatté un capitolo fondamentale della guerra fredda tra la direzione aziendale e i comunisti, la CGIL. Una lotta durissima, punteggiata di decine e decine di licenziamenti, punteggiata dai reparti confino, la celebre officina Stella Rossa dove venivano confinati i militanti comunisti. A Ivrea non avvenne nulla di tutto questo. Per i lavoratori i vantaggi sono innegabili. Olivetti si preoccupa anche di tenere saldo il rapporto tra vita di fabbrica e la campagna, perché molti dei suoi lavoratori sono ex contadini. Ecco il racconto di Furio Colombo. L'indicazione che mi aveva dato era: scoraggi sempre coloro che vogliono entrare in fabbrica dal vendere la terra, che è di solito l'operazione che fanno. Li scoraggi, perché se ci fosse una crisi avrebbero un posto in cui ritornare e avrebbero un'ambientazione naturale alla quale appartenere, invece che trovarsi sbalzati nel vuoto. Ed è ancora Furio Colombo che racconta le abitudini di Adriano Olivetti. Gli incontri con Adriano Olivetti avvenivano sempre molto presto la mattina. Lui raccontava che si svegliava alle 4 del mattino e io ricordo di avergli chiesto, da giovane dormiglione a cui piaceva, perfetto per la professione giornalistica perché mi piaceva essere in giro non prima delle 10, e lui mi voleva alle 6 nel suo ufficio per chiacchierare della giornata e poi impostare il lavoro. Mi ricordo di avergli chiesto: ma ingegnere, cosa fa lei dalle 4 alle 6 quando si sveglia? E lui mi ha risposto con quello suo sguardo limpido e di bambino che si affaccia al potere, alla cultura, alla conoscenza, ma anche al futuro. Mi ha risposto: progetto. E progettare significa anche pensare al futuro, immaginare un nuovo modo di agire nella società, come racconta lui stesso. Ma qui noi abbiamo voluto, qui nel Canavese, creare uno strumento vivo, io direi un progetto pilota, un laboratorio sociale, vero? In cui si, nella realtà e nella vera vita, si dà luogo a un'azione comunitaria, vero? Cioè un'azione in cui ciascuno nel proprio ambito e nella propria funzione lavora a un fine comune e coordinato, che è quella caratteristica vitale dell'idea e dell'ideologia comunitaria. Nel 1947 Adriano Olivetti fonda un suo movimento politico, il Movimento Comunità. A sue spese inaugura una nuova casa editrice, le Edizioni di Comunità. È uno sforzo rivolto all'arricchimento culturale della base, delle fasce più deboli. Ancora Giuseppe Berta. Un giorno, mentre visitavo gli istituti sociali, uno dei responsabili della biblioteca gli disse: ah, ma ingegnere, qua spariscono i libri, qua se li prendono non li portano indietro, se li rubano. E lui disse: bene, ottimo segno, vuol dire che leggono. Accanto alle iniziative sociali, Olivetti continua a immaginare una crescita per la sua azienda e, credendo nell'intuizione del figlio Roberto, che immagina che il futuro passi attraverso l'elettronica, così quando l'IBM lancia il suo primo calcolatore elettronico, Ivrea risponde immediatamente aprendo la DEO, la divisione elettronica Olivetti. Nel 59 viene presentato l'ELEA 9003, ancora Furio Colombo. Che sarebbe stato l'unico competitor, l'unica controfaccia della IBM al mondo. IBM e Olivetti, Europa e Stati Uniti, cambiava la storia. Ma la divisione elettronica, che poteva essere il vero futuro dell'Olivetti, non si svilupperà. Intanto dopo un periodo di accordi mancati coi partiti di sinistra che non vogliono un industriale capitalista nella loro fila, Olivetti decide di presentare il Movimento Comunità da solo alle elezioni politiche del 58. Nella campagna elettorale investe personalmente più di 1.300 milioni di lire. Gira l'Italia per confrontarsi con la gente, come testimonia il suo collaboratore dell'epoca Renzo Zorzi. Vedemmo quest'uomo schivo, timido, incapace di demagogia, abituato a un linguaggio che non poteva avere presa su un elettorato indifferente, sensibile solo alle parole d'ordine e agli slogan più facili, girare da una città all'altra, dalla Sardegna alla Lucania, da Roma a Torino, instancabile, deciso a fare tutto ciò che doveva perché la cosa riuscisse, fiducioso contro l'evidenza che un discorso pacato, ragionevole, necessariamente tecnico, potesse strappare un consenso. Lo vedemmo mettere in questa impresa senza esitazione il suo prestigio, la sua salute, il suo avvenire, la sua stessa vita. Finì come non poteva non finire. Il Movimento Comunità raccattò alcuni altri movimenti autonomistici e la lista di Olivetti era una lista troppo difficile per il mondo politico italiano, per l'elettorato italiano. Le elezioni furono un fallimento e Adriano Olivetti si viene a trovare in una situazione delicata. Il suo ruolo in azienda viene messo in discussione dai suoi stessi familiari, con un peso azionario minimizzato dalle enormi spese per la campagna elettorale. Adriano Olivetti si dimette dal ruolo di amministratore delegato. È un periodo di isolamento e di grande malinconia, ma Olivetti è pronto a ripartire con una mossa a sorpresa. E lo racconta il suo collaboratore Massimo Fichera. Ed ecco qui che viene fuori, ma sotto questo aspetto da cherubino invecchiato, da uomo gentile e mite, viene fuori la tempra d'acciaio che aveva quest'uomo, il quale immediatamente, il giorno dopo aver abbandonato la presidenza, si rimise a lavorare con tutto il suo prestigio, con tutta la sua fantasia industriale per le operazioni economiche. Fu allora che decise l'acquisto della Underwood. Underwood, il colosso industriale che da ragazzo gli aveva negato l'accesso, è ancora un gigante. Gli azionisti della Olivetti, consapevoli di essere inadeguati alla direzione dell'azienda senza l'uomo che l'ha lanciata a livello mondiale, lo rinominano presidente. E Olivetti, sfidando lo scetticismo e la contrarietà dei suoi collaboratori, fissa un appuntamento negli uffici dell'Underwood per acquistarla. Ecco il ricordo di Beniamino De Liguori della Fondazione Olivetti. Credo che in quella scelta coraggiosa di acquisire una fabbrica malandata, però con una rete commerciale strutturata in modo efficacissimo sul territorio americano, che non ci fosse solo un disegno di espansionismo dal punto di vista industriale, cioè che in altre parole Adriano Olivetti abbia risposto alla sconfitta alle elezioni del 58 con l'idea di rilanciare ancora su un tavolo ancora più importante, cioè di portare Comunità negli Stati Uniti. Ma l'acquisto dell'Underwood non mette Adriano Olivetti al riparo dalle critiche. Il rapporto con gli azionisti della sua azienda, gli altri industriali e i politici dell'epoca è sempre più difficile. D'altra parte, la sua idea imprenditoriale e politica non trova posto in nessuna ideologia e in nessun partito. Ancora Giuseppe Berta. Io credo che Adriano Olivetti abbia sempre visto e concepito se stesso come l'imprenditore della Olivetti, non come il padrone. Anzi, la proprietà privata della Olivetti costituiva un vincolo e un limite alle sue azioni. E allora pensava sempre più con gli anni a una forma di proprietà sociale dell'impresa, una proprietà pubblica che non coincidesse con lo Stato. Una fondazione in cui confluissero le rappresentanze del lavoro, della competenza industriale e scientifica, del territorio. Queste tre componenti avrebbero dovuto prepararsi davvero a gestire l'impresa. E il 1960 l'Olivetti sembra pronta a svolgere un ruolo primario nel rilancio dell'impresa italiana sui mercati mondiali. Ma il 27 febbraio di quell'anno Adriano Olivetti muore. Ascoltiamo il ricordo di quel giorno dalla voce della figlia Laura. A Ivrea era carnevale e a Ivrea uso che il sabato sera venga presentata quella che viene chiamata la mugnaia, che poi diciamo l'interprete principale del carnevale, e io quell'anno facevo una cosa ambitissima che era fare la paggetta della mugnaia, e mia madre era molto nervosa, mi disse che sì, insomma, aveva altro per la testa. Ho detto: mamma, ma è possibile una cosa più importante del carnevale? E lei mi disse sì, ma non mi disse altro. Siamo andati a casa di questa sorella di mio padre e lei mi ha detto che lui era stato molto male, che la mamma era andata da lui, e io ho detto: ma è morto? E lei mi ha detto: no, non è morto, però vedevo che piangevano tutti. Una città che piangeva suo figlio. La città amava Adriano, quest'uomo difficile e scorbutico, era capace di farsi amare. Fu una perdita molto dura che dovetti elaborare in un certo periodo di tempo, perché mi aveva cambiato la vita. Dopo la sua morte, la famiglia fa entrare nel consiglio d'amministrazione un gruppo di intervento formato tra gli altri da Fiat, Pirelli, Mediobanca, IMI e dalla Banca Centrale. Vittorio Valletta, all'epoca presidente della Fiat, afferma testualmente che per sopravvivere la Olivetti ha un solo neo da estirpare, la divisione elettronica, che infatti viene ceduta all'americana General Electric. Ma secondo molti, con la dismissione della divisione elettronica della Olivetti, il nostro paese ha perso un'opportunità fondamentale per competere a livello internazionale. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix24 sul sito www.radio24.it.